benvenute e benvenuti alla 26esima puntata di... La musica e canto di cantare. Eclettismi spaziali. Sono tropicali. Puntata specialona, spuntata eclettica. Il tema della puntata, suggerita da qualcuno, da qualcosa, è le schiavitù contemporanee. Perché a noi piace trattare argomenti scottanti e provare a entrare nel contemporaneo, entrare nello schiavismo, scavare sempre di più, schiavare. Nella nostra ricerca delle schiavitù contemporanee abbiamo qui il nostro ospite DJ Ciao, che ci può dare una panoramica rispetto alle sue esperienze centenarie di vita in questo mondo. DJ Ciao, da dove vieni e dove stai andando, insomma? Vengo dalla città più bella del mondo. Sono di Venezia e la mia storia del mio nome già è proprio il nome, come tutti sanno. Ciao significa proprio schiavo, che era il nostro modo di porci con il prossimo, un po' come il namaste indiano. Io facevo il DJ sui carri mascherati, infatti Battiato nella sua canzone si è ispirato a me, fino però a rendermi conto che tutta quell'essere famoso, quell'esposizione mediatica mi rendeva schiavo della mia immagine. Uscire da quel circolo vizioso per aiutare il prossimo ad affrontare le proprie dipendenze, quindi adesso io vivo in strada, anche perché la mia casa è affittata su Airbnb e non riesco più a riprenderla. Vivo in strada e offro consulenze alle persone, ai turisti, vivo di aiuto del prossimo, quindi io sono l'esempio di come la schiavitù da se stessi, dalla propria immagine, può essere usata in maniera positiva per aiutare il prossimo e quindi riconnetterci all'uno e superare il concetto di separazione che poi ha creato la schiavitù che tutti noi conosciamo. Adesso non vi voglio tediare e vorrei dire, appunto, ricordare a tutti che ciao significa sono il tuo schiavo, ecco, e non in senso sessuale come i più maliziosi di questa radio io so che penseranno, ma proprio schiavo come per dire io sono a tua disposizione, prossimo, tu sei il mio padrone. Ciao DJ, ciao. E l'altro ospite che abbiamo qui davanti, voi non lo vedete, si chiama DJ Sergio Slay. DJ Sergio, qui dalla tua biografia su Wikipedia leggiamo che ha fatto diversi lavori al sud, in Calabria, in un'azienda agricola. So che non state messi molto bene, ci racconti un po' la sua storia. Siamo venuti a trovarla l'altra volta ma non ci hanno fatto entrare, c'erano degli uomini armati, ma ci dica perché ora è qui con noi. Vabbè, ormai vivo a Roma, si sente anche dall'accento, quello calabro e quello romano. Quello pakistano l'ho perso strada facendo perché ho finito la memoria. Ho cominciato nei campi della raccolta di arance a Rosarno. Nel nostro campo le condizioni di lavoro sono abbastanza pesanti, ma sono riuscito ad andarmene. Prima guadagnavo 2 euro l'ora. Poi sono riuscito a comprare un telefono e a fare i tutorial su TikTok su come raccogliere le arance. Lì sono riuscito, anche con le spese del cellulare, a guadagnare 2 euro al giorno in più. Grazie a quei 2 euro al giorno sono riuscito a pagare la mia libertà e venire a Roma. Adesso faccio i tutorial del lavaggio dei vetri ai semafori. E adesso a Roma riesco a guadagnare 3 euro in più di quanto guadagnavo in Calabria, ma le condizioni di vita sono peggiorate, perché condivido uno sgabuzzino con altre 12 persone. Essere schiavi di una dipendenza è una fuga da qualcosa che abbiamo dentro ma che non vogliamo affrontare. La dipendenza è una fuga che ingabbia, una fuga che porta alla schiavitù. Σφαλιάρα. Έχω μια πείνα τεράστια και ένα θυμό δολοφόνου ζυγάρα. Τις άκρες σου βλέπω ψημένη από φωτιές και καπνού πειραγμένη. Άλλο το σώμα δεν πάλεται, μα η πείνα παραμένει. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα πρέπει, ο καθένας όπως τη βλέπει. Γι' αυτό και καυλώνει στη δόνηση από ένα μήνυμα μέσα στη τσέπη. Είμαστε όλοι φρικιά, κάποιος ή κάποια γεννά. Για μερικά δευτερόλεπτα πήγανε όλα στραβά. È ora di vedere per cosa hai sacrificato la tua vita. Magari di goderti anche tu un po' di quella libertà. Guarda le persone. Adesso dimmi chi è libero. Libero dai debiti, dall'ansia, dallo stress, dalla paura, dai fallimenti, dalle offese, dai tradimenti. Quanti vorrebbero essere nati sapendo ciò che sanno ora? Chiediti in quanti rifarebbero le stesse cose. c'è slave senza mistress e non c'è mistress senza slave. Chi sono io? La voce che ordina o quella che esegue? Quale voce? Ah, perché solo io la sento? È quella che suggerisce. Controlla, lascia andare, rispondi, non rispondere, rilassati, datti una mossa, lavora, non lavorare, esci, non uscire, mi piace, ma come fa a piacerti? Fai quello che dico io, faccio tutto quello che dici. Silenzio. Morte durante un gioco erotico, una col collare, l'altra con la frusta. Suoi sfruttatori, perché comunque c'è un senso di... Noi lo sappiamo, si chiama metafrutta, eh? diciamolo, perché questa è una trasmissione d'inchiesta come Giletti e Cocoa. Quindi noi già sappiamo tutto, l'abbiamo liberato, no, in verità questo era lo scoop che grazie ai video di TikTok noi l'abbiamo notato e abbiamo seguito, abbiamo imparato a raccogliere le arance. Grazie a quei click noi abbiamo aiutato centesimo a farlo uscire dalla schiavitù. O stregheta! Andiamo avanti con la musica. Ci ascoltiamo Nuri con Hiri, remix di Marta van Straten e Mrux. Buon ascolto. Diversamente, e lui non ci mette niente ad accettare che, beh, certo, sì, sì, deve essere così per forza. Lo portano a vedere la lavorazione della canna da zucchero. È un frantoio girato da schiavi con enorme fatica, con guardiani pronti con la frusta. E lui dice: sì, sì, poveretti, fanno compassione vederli frustare così. Però d'altra parte è una medicina necessaria, perché questi qua non lavorerebbero mica. Io li ho visti in Africa, dice. Son gente che non sa far altro che ballare. Io ti ho invitato perché volevo una tua consulenza, perché so che sei molto preparato, ho letto tutte le quarte di copertina dei tuoi libri e credo che mi puoi dare un aiuto. Ho una dipendenza da intelligenza artificiale, da un mese non riesco più a parlare, interagire, scrivere, pensare senza l'aiuto di un'intelligenza artificiale. Che mi sta succedendo? Ciao. Innanzitutto prova a dire il tuo nome, vediamo se ti ricordi come ti chiami. Mi chiamo DJ Fede. Già tutto un programma. Io avevo visto nei tuoi occhi questa schiavitù, chiamiamola, perché tu la chiami dipendenza, ma secondo me ormai tu sei schiavo. Diciamo che le domande che ho fatto prima le ho chieste, cioè, ho preparato la puntata grazie all'intelligenza artificiale. Beh, vedi, mi fa piacere comunque che tu almeno sia consapevole di questa tua situazione. E ci tengo innanzitutto a dirti che non sei solo, perché se mentre prima, quando ero piccolo, la schiavitù era, diciamo, imposta da delle persone o dalle istituzioni, a oggi, caro Fede, la schiavitù si manifesta tramite il digitale. Ebbene sì, noi siamo schiavi di un sistema di pensiero, un sistema di vita, in cui non riusciamo più a staccarci da computer, social, telefono. Staccarci, cioè noi per sentirci vivi in questo sistema dobbiamo per forza affidarci e affidare la nostra immagine, perché ormai è rimasta solo quella, a un algoritmo. Sarà percosso con molte frustate. Avete sentito? Frustate. Il negro che non obbedisce al suo signore, cioè al padrone, capite? Quel negro sarà percosso con molte frustate. Ora molte significa tantissime. 40, 100, 150 frustate. È nelle scritture. Vedi, caro Fede, sicuramente a oggi ti sembrerà una risorsa questa famosa intelligenza artificiale con la quale non fai altro che pensare di instaurare un dialogo. Siamo amici. Continui a darle anche un'anima e tu darai un'anima a questo oggetto freddo. Il problema si manifesterà quando queste intelligenze artificiali ti sostituiranno, come già stanno sostituendo i copywriter, gli scrittori, i giornalisti, i musicisti, montatori, videomaker. Se lavorano le macchine, noi lavoriamo di meno, o no? Guarda, su questo sfondi una porta aperta, nel senso che io sono contro il lavoro, contro la separazione del lavoro, che è stata poi quella che ha creato la schiavitù. Se non ci fossero state le gerarchie lavorative, la separazione dalla natura tramite il lavoro, non ci sarebbe stata neanche la schiavitù, caro amico Fede. E tu ora non saresti schiavo di una macchina, ma parleresti col creato. Grazie, ciao. Credo di avere capito tante cose della mia malattia, di queste nuove malattie contemporanee che ci aggiungiamo a quelle passate, insomma, cioè le collezioniamo. Hola, este es el track, se llama ¿Tienes autotune o te presto? Sergio, qui stiamo iniziando a capire che le tecnologie, l'intelligenza artificiale possono essere usate per creare dipendenze, per monitorare, controllare le persone, per manipolare le decisioni e quindi creare anche dei nuovi sistemi di sfruttamento che, a quanto pare, sembra che la schiavitù sia passata, ma se c'è un passaggio di paradigma in cui siamo noi tutti e tutte schiavi digitali, in un mondo in cui noi lavoriamo a gratis e diamo tutta una serie di contenuti, informazioni, parti di noi stessi a società private per scopo di lucro e per anche questo allenamento, questo training dell'intelligenza artificiale che sto usando e quindi... Secondo ETA... Cosa ne pensi di questa tua schiavitù digitale? Nella mia esperienza di dipendente sono uno schiavo digitale, nel quanto la maggior parte del mio tempo è davanti a questo schermo, che sia del computer o del telefono, che cerco di vedere notizie, immagini. E questo mi costa più di quanto ci possa guadagnare follower e soldi, sì. E come abbiamo visto, ci sono due livelli di schiavitù, quella che ci viene dagli altri e quella che ci viene da noi stessi. E col digitale sono diventate la stessa cosa, forse c'erano delle radici più antiche. Il fatto che io lavoro per il digitale, adesso sono schiavo degli stessi contenuti che metto. Produco contenuti per queste intelligenze artificiali che mi sfruttano. mio cugino invece fa il check dei contenuti di ChatGPT scabrosi. Ciao a tutti, scusate se prendo la parola, ma come vedete è palese questa incapacità di rendersi conto di come si è schiavi. Ecco, il nostro amico Fede ha fatto uno slancio di autocritica e è riuscito a dire a tutti noi della sua schiavitù, mentre invece qui il nostro amico Sergio purtroppo, nonostante si sia liberato dalla schiavitù agricola, non riesce a visualizzare appunto la sua schiavitù digitale come una vera e propria schiavitù, amici. Perché noi non esistiamo al di fuori, ormai al di fuori del social, noi non siamo più al di fuori dell'algoritmo. Ecco, purtroppo questa realtà distopica, dicotomica e dico anche di merda alla quale siamo sottoposti quotidianamente rende tutti noi i nuovi schiavi digitali, perché nessuno di noi riesce più ad abbandonare questi oggetti funzionali alla tecnocrazia di questi grandi, diciamo, alieni, di questi alieni che ci continuano a comandare. Che è quella dell'uomo e del suo assoggettamento a chi che sia. Sì, infatti la rivelazione è apparsa quando risalì del monte lungo il giardino di arance e su in cima dove fanno patti c'era su una roccia l'impronta della mano del Mahasiddhi Padmasambhava e lì ho capito che non era vero nulla, non era vero nulla, non ero vero per nulla. Mon cœur fait boom bam cric crac pardiac. Mon cœur fait boom bam cric crac pardiac. Mon cœur fait boum bam cric crac diac. Mon cœur fait boum bam cric crac diac. Mon cœur fait boum bam cric crac. deficienze artificiali, che io le chiamo così anche perché gli manca sempre qualcosa, gli manca sempre qualcosa. In realtà non sono nient'altro che la manifestazione del velo di Maya. Quindi ormai siamo arrivati al paradosso totale, caro amico Fede, e quindi io spero che tu riesca in qualche modo, ecco, a chiamarmi quando sentirai l'impulso di chattare con una deficienza artificiale, che non tutti sanno che appunto in realtà è nutrita, e sono le parole dei kenioti pagati, ecco, come i raccoglitori di arance, 2 euro l'ora, i nuovi schiavi sono questi. Ecco, vorrei chiudere soltanto lanciando questo messaggio a mia nipote che sta su OnlyFans. Le voglio dire che non è questa la via, non è sbagliato, cioè stanno costringendo a mia nipote a prostituirsi per il web. Quindi ci rendiamo conto, a mia nipote le voglio dire è falso, è tutto falso, leviti di OnlyFans, che i miei amici mi stanno prendendo in giro, mi bullizzano. Ci sono nuove forme di espressione contemporanea diverse da quelle nostre e accettiamole. No, io mi sono portato l'accetta e adesso comincerò ad accettare un po' qua e là. Qualcuno direbbe che sono falsi idoli, no? Come le sirene che ti guardano e tu le guardi e si muovono su e giù, di lato, tanti caratteri che sono labirinti di significati. La bolla all'interno della bolla, cioè si parla e si usa questa deficienza artificiale anche se inutile, no? È come dover comprare, seguendo il fashion victim, questa tecnologia che sembra così utile, che ci aiuta così tanto, in realtà non fa altro che atrofizzare, come già ho detto nelle mie quarte di copertina. Se voi mandate all'indietro il mio remix di Bella Ciao, potrete sentire appunto questo, le tematiche di cui sto parlando adesso, cioè quindi dell'inutilità del digitale. Se voi mandate indietro la traccia, ecco, sentirete la verità. Dice ciao, di cognome fai Salve? No, di cognome faccio Oaj. Quando ero arrivato lì di fronte alla pietra con l'impronta, capii che il problema era volere altro, no? Questa immagine che brillante, che tenta di soddisfare la tua sete di volere altro, di volere un altro immaginario diverso da questo che c'è. Forse parte della nostra evoluzione o questa scintilla di universo. Find the ground. fa sono andato al lavoro con una felpa con grafiche capable che fanno sfarfallare il software di sorveglianza della linea di imballaggio pacchi. Mi hanno fatto un richiamo. Allora ci sono andato con una felpa normale, però qui ho messo del nastro adesivo rifrangente e le telecamere sfarfallavano. Poi mi sono messo una maglietta con delle grafiche frattali e per il software di riconoscimento facciale all'entrata dell'azienda sembrava un ectoplasma. Niente. Da ieri sono obbligato a mettermi una divisa, una tuta da lavoro che sembra quella dei carcerati. Stiamo ascoltando Choco Abba con Brazzaville. Manipolarvi, assoggettarvi, così come esperimento sociale, e mi ha dato varie tecniche, ve ne leggo un poco, vediamo se ci riuscirò. Linguaggio ingannevole, paura di perdere qualcosa, tecniche di persuasione, comunicazione manipolativa, disinformazione. Queste sono soltanto alcune cose. Mi può aiutare l'intelligenza artificiale per manipolarvi, per rendervi schiavi della trasmissione. Voi siete sicuri che riuscite a essere consapevoli, critici e attenti a queste tecniche manipolative nei vostri confronti quando usate i dispositivi tecnologici e digitali? Sì, intanto è l'unico strumento con cui possiamo portare le pizze in giro per la città negli ultimi anni. Dopodiché ci manipolano in qualche modo perché ci lanciano dei segnali attraverso le immagini che andiamo a vedere in maniera casuale, che possono programmare il nostro cervello facendoci arrabbiare o disinteressare alla stessa realtà, e siamo lì a... oltre a comprare pubblicità, siamo lì a far plasmare il cervello da scariche di dopamina, che mi piace. Eh sì, no, proprio lo devo dire, sento quella scimmietta sulla schiena. La vediamo pure da qui, la tua scimmietta. DJ Ciao, tu vuoi dire qualcosa su come fare a non subire queste tecniche manipolative così infime, oscure alle nostre spalle? Ecco, vorrei lanciare un messaggio di speranza, un messaggio positivo e per i giovani, anche per mia nipote appunto. Volevo dire, no, non c'è salvezza, tutto ciò non riusciamo purtroppo a... l'unico modo è non usare queste tecnologie, quindi l'unico modo è ascetarsi, quindi svegliarsi e astenersi nello stesso tempo, come ho fatto io scegliendo di vivere in strada, riprogrammarsi, riprogrammare se stessi, ma è impossibile. Io ci ho provato, ma poi mi ritrovo a guardare i telefonini delle persone che sto cercando di aiutare. E dire a tutti quanti che appunto non sono un fuffaguru, io so di essere anch'io schiavo di questo sistema, sto cercando di liberarmi e visto che non so cosa c'era in quel caffè che mi hai dato, ma mi sento di dire tutta la verità. E non li scrivo io questi libri, in realtà prima li scrivevano, diciamo, dei bambini. Detto questo, appunto, il mio messaggio di consapevolezza, appunto, delle tecniche manipolatorie e come liberarsi, il mio messaggio è vuole essere positivo ed è non ci si può liberare. Se noi, osservando quest'onda di informazioni, riceviamo queste onde di dopamina, non siamo altro che drogati dall'intelligenza, questo algoritmo, come è stato richiamato più volte, che fa in modo che noi abbiamo degli impulsi di dopamina, di neurotrasmettitori, e le droghe non fanno altro che alterare queste equilibri del nostro sistema nervoso centrale e anche periferico. Come diceva un mio amico di cui non voglio fare il nome, ma diceva: io non sono dipendente dalla droga, io sono il principale, ecco. Schizofrenia che comunque genera l'algoritmo mi ha fatto aprire altri profili, una quantità di altri profili falsi dove io ero altre persone, dove facevo altre cose e avevo l'illusione di essermi allontanato dal mondo digitale, ma in realtà avevo altre personalità che sviluppavano il loro rapporto con l'algoritmo. Perché siamo tutti ormai schiavi. prima chiusura, perché è tardi. DJ Ciao ha una cena molto importante per dei nuovi progetti, di cura da dipendenza, deve aprire una clinica privata. Grazie, grazie per darmi questo spazio. Vorrei dire che a breve, appunto, apriremo sul Monte Kailash questa, diciamo, casa, una casa comune, dove studieremo la dissolvenza dell'io e la liberazione dal digitale. Ecco, per tutti voi questo è un invito. Sappiate che si può partecipare soltanto contribuendo con una piccola spesa di rimborso, spese. Volevo invitare. No, non si può fare pubblicità alla nostra trasmissione. Grazie, comunque è una bella idea, una ricerca dell'io. Ma noi nel frattempo ci ascoltiamo i Metabana con Sleeper Train. Flusso di armi, controllo del conflitto. No. La BBC è una banca. Il loro obiettivo non è il controllo del conflitto, è il controllo del debito che il conflitto produce. Vedete, il grande valore di un conflitto, il vero valore, sta nel debito che genera. Se controlli il debito, controlli tutto quanto. Voi lo trovate inquietante, vero? Ma è questa la vera essenza dell'industria bancaria. Fare di tutti noi, sia che siamo nazioni o individui, schiavi del debito. ci ascoltiamo i Sons of Kemet con Black. Black is tired. Black would like to make a statement. Black is tired. Black's eyes are vacant. Black's arms are leaden. Black's tongue cannot taste shit. Black's stomach cannot compress death. And Black would like to state that Black is not a beast of myth, to be slain in a fable, recounted on top of a round table, surrounded by blue-collared brave men. And Black has demands. Black demands battle-proof bones and bullet-resistant skin. Black thinks no person this trigger nervous deserves a gun, much less a badge. And Black knows one day its arms will be up, its lips pinned, but its shadow will be reaching for something that isn't there, and that'll be enough. Black says keep your 40 acres, just let Black reach for the end of the street. Let Black reach for the last few sweets. Just let Black reach into Black's own car. Let Black reach into Black's own lungs. Black doesn't want his young ones seeing their fathers dead on YouTube. Pausing halfway through clips just to keep them alive. Black says it's always been like this. It's you who's late to woke. And Black has seen your grin. Your grin is a cutlass flag. And Black's hands are bleeding from gripping the knife edge you offered on your side of the handshake. Go write your thoughts and prayers on a piece of paper. Fling it at the moon. See what that will do. You call for calm. You call for peace like sacrifices on mountain peaks. He doesn't end up lava, but he climbs at the top. But the league is still in lava. Black is angry now. Black's in pain. And Black snares and fireflies dancing with grief. A chorus word trapped in a bracket. A sentence too intense for one full stop. Black says that you don't understand. Black says that you cannot compare. Black says that pain is too pepper. Black says that you cannot digest. Black says how can you relate? Trasmissione, questa puntatona sulle schiavitù digitali, dobbiamo anche pensare al discorso opposto se siamo liberi, per esempio, se ci sentiamo liberi. Quindi la risposta che posso dare rispetto a quello che abbiamo detto e alle tecniche avanzate di manipolazione emotiva, linguistica, sensoriale, eccetera, delle persone da parte di soggetti, istituzioni privati e pubblici nei nostri confronti, e quindi do una giustificazione a tutti noi, insomma siamo tutti schiavi digitali, ma in qualche modo è difficile accorgersene, è difficile fare delle azioni realmente efficaci. Quindi sì, la soluzione è l'escapismo, il solito escapismo. Andremo comunque sicuramente, ecletti, Disney avrà un suo posto in campagna prima o poi. Escapismi musicali. Quindi un giro di saluti finale con Sergio, DJ Sergio. Che dire, siamo partiti dal Pakistan, dalle campagne, dalle montagne ben fiorite, e per arrivare in Italia e cercare di tornare di nuovo in un posto lontano dai luoghi che cercavamo e ci hanno fatto illudere che sarebbero state la nostra ricchezza, invece si trasformano nella nostra povertà. Schiavi di queste nuove macchine ci distraggono dalla schiavitù che abbiamo dal lavoro, dalla sopravvivenza, facendo pagare anche questa sopravvivenza su di me quando raccoglievo le arance, e adesso su di me che immetto contenuti sul web. Sono arrivato a Roma e me ne voglio andare, vediamo quanto lontano arriverò. Sì, voglio ringraziare Radio Forte, voglio dire a tutti gli ascoltatori che c'è anche un altro modo, forse un altro modo potrebbe essere distruggere la tecnologia, ecco, il distruzionismo che o avverrà tramite evento naturale o tramite gesti eroici di bombismo antropologico, cioè tornare alla radice dell'uomo e annientare la macchina che presto sarà nostra padrona. Altrimenti, un grande ciao dal vostro DJ Ciao, e ciao ciao. Un saluto da Escapismi Spaziali Sudtropicali e ci vediamo il prossimo mese. Spaziali.